Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Cominciamo la nostra settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto a tutti i radioascoltatori. Oh Gianluca, noi usufruiamo del telefono per comunicare, ma insomma quando ci sono delle comunicazioni scritte poi certe volte è meglio, perché sono più chiare e sono anche importanti per termini di legge, però spedire una raccomandata, una busta, qualcosa costa. Sì, tra l'altro noi come associazione diciamo che ci lavoriamo quotidianamente con le raccomandate, soprattutto con le raccomandate con ricevuta di ritorno, perché chiaramente quando il nostro ufficio legale scrive alla controparte, la lettera nel 90% dei casi viene inviata appunto tramite raccomandata. E beh, la cattiva notizia appunto è che purtroppo dall'anno nuovo ci sarà l'ennesimo ritocco all'insù appunto per le tariffe postali, quindi anche per quanto riguarda le raccomandate e altri tipi di comunicazione. Questa è una brutta notizia, anche perché oggettivamente non è giustificata neanche da un generale aumento di prezzi, perché noi sappiamo benissimo che siamo in un periodo di sostanziale stagnazione, se non addirittura deflazione, comunque insomma in un periodo in cui certi prezzi non salgono. Beh, però insomma dovremmo fare i conti con questi aumenti. Se andiamo un attimo a vederli, sono aumenti anche rilevanti, perché ad esempio spedire una raccomandata dal 10 gennaio prossimo costerà 50 centesimi in più di prima, e per una raccomandata normale che arriva quindi fino una raccomandata base che arriva fino ai 20 grammi il costo sale da 4,50 euro a 5 euro. E questo tipo di aumento riguarderà anche le comunicazioni di notifica, quindi l'avvenuta notifica, la comunicazione di avvenuto deposito e tutte le altre comunicazioni di atti giudiziari, tipo quelle che ci arrivano a casa quando appunto ci comunicano che alle poste bisogna andare a ritirare qualche atto giudiziario. Ancora più significativo l'aumento per quanto riguarda le raccomandate invece internazionali, infatti in questo caso il ritocco è di 65 centesimi, si va da 5,95 euro e si passa a 6,60 euro a raccomandata internazionale. Un po' più contenuto, diciamo fortunatamente, il ritocco per quanto riguarda i servizi dei professionisti, infatti aumenta solo di 10 centesimi il tipo di servizio riservato ai professionisti e alle aziende, quindi si tratta dei servizi di raccomandata pro o di raccomandata smart. Quindi diciamo che in questo caso l'aumento è limitato, però bisogna anche dire che questo tipo di raccomandate sono anche molto frequenti. Sì. E ultimo ritocco, perché dobbiamo concludere con i ritocchi purtroppo, c'è anche quello per le tariffe della posta assicurata, che appunto le tariffe saliranno in caso di plichi con peso superiore ai 20 grammi, sia per gli invii in Italia che all'estero. Qua stiamo parlando di un aumento di 35 centesimi e quindi insomma siamo sempre su quelle cifre là, però in ogni caso sono cifre importanti alla fine, soprattutto io parlo ad esempio per un'associazione come la nostra, insomma, che va a inviare parecchie raccomandate, ma insomma per tutti quelli che utilizzano i servizi postali, che sono ancora molti, perché non diciamo che non siamo neanche ancora un paese in cui comunichiamo solo via PEC, ma continuiamo a comunicare tramite raccomandata. Quindi Francesco, questo è già un primo annuncio di un aumento per il 2017. Sì. Suppongo che ci ritroveremo a parlare spesso nel tuo programma di nuovi aumenti, purtroppo, perché sappiamo che l'anno nuovo solitamente porta anche tariffe nuove e ovviamente più care di quelle precedenti. Ecco, so che però ci sono società private che fanno il servizio postale e costa meno. Sì, infatti ecco, noi ad esempio per certe spedizioni ci affidiamo anche a chi costa meno da questo punto di vista, quindi a società private. Ora noi ci dobbiamo dire, adesso parlo per noi, ma insomma in generale anche per chi li utilizza, noi ci possiamo anche trovare bene, c'è anche chi si trova male, abbiamo anche molte segnalazioni da questo punto di vista, però insomma anche le poste italiane in molti casi hanno dimostrato di non offrire un servizio poi degno di questo nome. Detto questo, appunto, noi abbiamo potuto notare anche dopo che abbiamo insomma raccontato anche tramite il nostro sito questo aumento, come giustamente a nostro giudizio gli utenti contestino che appunto a questo aumento non corrisponda poi un aumento della qualità del servizio, perché poi è sempre questo un po' il problema. Diciamo che il cittadino è disposto anche a pagare qualcosa di più di fronte però a un servizio che si rinnova, un servizio che migliora. Esatto. Noi questo sappiamo, andremo a verificarlo. Per quanto ci riguarda, noi vediamo che le poste, più che puntare a certi servizi, appunto come la raccomandata, eccetera, puntano a vendere quadernoni, matite, penne, libri, CD e quant'altro. Ha cambiato molto, insomma, la propria missione. Vabbè, ne teniamo conto, grazie per averci informato, insomma, prepariamoci a questi aumenti sui costi delle raccomandate. Grazie all'Adico, sempre attenta un po' a quello che è il mondo del consumatore, ovviamente. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie Gianluca Codognato. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.